La nostra battaglia è una battaglia a tutto campo rispetto alla salute della donna, alla salute delle ragazze, rispetto alle politiche antidiscriminatorie, perché devo dire che insomma rispetto alle mestruazioni e anche agli stereotipi e alle barriere culturali e sociali un po' colpevolizzanti siamo ancora molto indietro, dobbiamo recuperare tanto, per cui il fatto di riconoscere insomma la dismenorrea e quindi diciamo così un abbassamento effettivo, no, della qualità della vita della ragazze che a scuola oppure delle lavoratrici che al lavoro soffrono di dolori a volte anche invalidanti, credo che questo riconoscimento vada nel senso di portare maggiore equità e di non condannare le ragazze e le donne ad una sofferenza più del dovuto, più di quanto dovuto. Questo è un elemento di civiltà ed è un elemento che, ripeto, anche in Spagna ma anche appunto in un liceo di Ravenna insomma no, è stato riconosciuto come un elemento da affrontare, per cui il riconoscimento di un permesso che possa, in caso di dismenorrea certificata ovviamente, consentire alle ragazze a scuola, alle lavoratrici e al lavoro di usufruire di un permesso giustificato, questo è un elemento, come dire, credo appunto di civiltà. Ieri l'assessora Barbara Lori ha, come dire, appoggiato insomma questa battaglia. A livello nazionale se ne discute o ancora è un tema che rimane in sordina? Allora, io devo dire che per discutere di questi temi con appropriatezza, con profondità, no? E quindi anche, diciamo così, con quel progressismo necessario per mandare avanti e migliorare le condizioni delle donne, delle ragazze e di tutta la società, bisogna crederci nella parità di genere, bisogna credere nell'autodeterminazione femminile, bisogna vedere gli elementi di discriminazione che ancora sono così fortemente radicati, no? In una comunità, in un contesto ancora fortemente patriarcale. Ecco, non so sinceramente se la maggioranza parlamentare e il governo in particolare abbiano questa sensibilità, perché devo dire che le ultime uscite insomma tra la ministra Roccella, Meloni eccetera insomma non mi garantiscono questo approccio e questa attenzione, ma è compito delle forze progressiste credo e delle istituzioni fare di tutto per approdare ad una convergenza, perché rispetto al dolore e alla sofferenza insomma che le donne possono provare durante la dismenorrea, credo che su questo insomma non ci siano destra e sinistra, c'è soltanto una situazione di cui prendere atto e agire. Noi in Emilia Romagna stiamo cercando di agire. Parlando invece di, come dire, di una malattia specifica come l'endometriosi, i dati della regione dicono che potrebbero soffrirne 98.000 donne nel nostro territorio, però a me colpisce quel condizionale, cioè potrebbero, perché evidentemente è un tema su cui ancora non si fa abbastanza luce? Ma più che altro, come dire, atteso che l'80% no, delle ragazze e delle donne soffre di dismenorrea, per fare in modo di avere dati certi bisogna individuare la dismenorrea come appunto, come dire, una cronicità o comunque come un passaggio da certificare e quindi da registrare, no? Per poter avere dati certi e poter in questo modo essere ancora più come dire appropriati nella prevenzione e quindi anche nella presa in carico di questo problema. Ma la disattenzione rispetto alla medicina di genere e alla salute femminile in particolare fa sì che non siamo ancora così in generale, no? Perché il sistema sanitario è un sistema nazionale, no? E alla regione compete organizzare la sanità, non promuovere in senso tecnico la salute nei suoi aspetti, come dire, più medici, più biologici. Quindi in questo senso, come dire, è una certificazione di quello che stiamo facendo, cioè cercare di alzare il livello di attenzione su questo tipo di disturbo, alzare il livello di attenzione sugli strumenti che possono migliorare le condizioni di questi giorni, diciamo per le donne che soffrono di dismenorrea e ovviamente assumere delle soluzioni conseguenti. Appunto, qualche scuola sta riconoscendo queste giornate, ovviamente certificate dal medico, e noi confidiamo che non sia più a macchia di leopardo, perché il diritto alla salute è, come dire, deve essere riconosciuto insomma da nord a sud senza distinzioni. Ecco perché ci vuole la responsabilità del governo e del Parlamento.